Io invece dai, pensavo che secondo me la birra e ognuno porta un suo argomento, cioè una sua tematica. Arriva l'acqua. Posso tra su missione no buona. No, lo vedrete cosa succederà tra 18 mesi. Salvateli tutti. A stronzo! Pop Corner. Buonasera cari amici di Runtime Radio, benvenuti al nuovo appuntamento con Pop Corner, la trasmissione pop di Runtime Radio del mercoledì sera o alle 21, runtimeradio.it. Per interagire con noi basta andare su Telegram e cercare dirette Runtime Radio e ovviamente unirvi alla chat e chiacchierare insieme a noi. Con me questa sera c'è Marco Gualdi. Ciao, buonasera, bentornati a questo scoppiettante nuovo episodio di Mondo di Quark. Quark. E con noi questa sera è tornata, grande richiesta del pubblico che si strappava le vesti, Mercedes Cucina Melova. Io vi voglio vedere tutti strapparvi le vesti. Va bene, va bene. Adesso non si può fare. No, adesso io. Che schifo. Purtroppo, ragazzi, ci abbiamo due defezioni. Uno è Walter Sbano, che è andato a fare cose, secondo me. Si possono anche definire defecazioni. È andata a Ostia. Sì, no, lui non ci dice niente, ma è andato a fare cose. Ma noi siamo contenti. Infatti. Vabbè, intanto spingo pulsante a caso come lui, per ovviamente in sua assenza. Diciamo faccio le feci in qualche maniera. E non sappiamo dopo se più tardi ci raggiungerà anche Carmine Puccio Console, perché oggi è stato attaccato dalla cistifellea. Anche cioè, lui è andato a Ostia. No, lui. Guarda, penso se va andato a Ostia con la cistifellea è tosta, dopo. Perché lui va ad amare la cistifellea. Esatto. Okay. E vabbè, comunque, dai, questo è quanto. E Francesco invece. Francesco non è assente. Anche lui sta amando fare altre cose. È assente da sempre, praticamente. Sì. Popcorn non mi sa che non c'è mai stato. Comunque, volevo dirvi che facciamo un po' un omaggio ad Alex Raccuglia. Perché facciamo un omaggio ad Alex Raccuglia? Perché parliamo di salsicce. Lui ha sviluppato un software che tramite l'intelligenza artificiale fa i riassunti delle puntate del suo podcast. Noi abbiamo esteso questa cosa portandola a un ennesimo livello, che diventerà una sorta di format all'interno del format. Tra l'altro c'è il plus, perché noi non ci siamo neanche sforzati a creare software. Il software già c'era. E poi vabbè, insomma, nel backstage spiegheremo come nasce la meraviglia. Però praticamente da quello che è uscito fuori dalla puntata precedente è nata una storia, una storiella che adesso ci ascoltiamo. Una storia di amore, di giustizia anche. Di amore e di giustizia e di fantasia anche. Quindi è proprio una lotta. Ma ci annoieremo? No, non ci annoieremo, rimarremo con i microfoni aperti. Poi non ci sta ascoltando nessuno. Vabbè, fa niente, che ci frega. Sei sempre attaccata alle chat, alle cose. Ah, Dio, ci ascolteranno. Non ci sta chattando. Qualcuno ci ascolterà. E quindi ascoltiamoci questa meravigliosa storia. Rocco Siffredi era un famoso cardiodentista, specializzato nel curare i problemi di cuore e di denti. Un giorno, mentre tornava a casa dal lavoro, si accorse che la sua edicola preferita era scomparsa. Era lì che comprava i libri Urania, la sua passione segreta. Si mise a cercare disperatamente il suo edicolante, ma non lo trovò da nessuna parte. Decise allora di andare a casa di un suo vecchio amico, che sapeva essere un grande collezionista di libri Urania. Era Puccio questo. Bussò alla porta, ma nessuno rispose. Entrò con una scusa e si trovò davanti una scena scioccante. Il suo amico era morto sul divano, con un libro Urania in mano e una ferita al petto. Era cistifellea. Sul pavimento c'erano tracce di sangue e di acqua. L'acqua è importante. L'acqua è importante. Rocco si avvicinò al cadavere e vide che il libro era Il pianeta dei draghi, uno dei suoi preferiti. Anche il mio. Lo prese in mano e lo aprì. Ma si accorse che le pagine erano vuote. Allora capì che era stato vittima di una trappola. Il libro era collegato a un meccanismo che faceva scattare un coltello e uno sciacquone del water per simulare un infarto e cancellare le prove. Se c'è Rocco, c'è lo sciacquone. Un delitto perfetto. Rocco si sentì tradito e furioso. Chi poteva aver fatto una cosa così? Chi odiava così tanto i libri Urania da volerli distruggere e uccidere chi li leggeva? Rocco si mise a indagare e scoprì che c'era una setta segreta di fanatici religiosi che considerava i libri Urania opere del diavolo. La setta era guidata da un misterioso personaggio che si faceva chiamare il profeta. Molto originale. Esatto. Beh, se era il priore era meglio. Rocco decise di infiltrarsi nella setta e di smascherare il profeta. Si fece passare per un convertito e si guadagnò la fiducia dei membri. Scoprì che la setta aveva un piano per eliminare tutti gli edicolanti e i lettori di libri Urania, usando dei libri truccati come armi. Il profeta aveva una base segreta, dove custodiva una grande quantità di libri Urania, pronti per essere distribuiti. Rocco riuscì a scoprire dove si trovava la base e vi si recò, armato di una pistola e di una granata. Entrò nella base e si trovò faccia a faccia con il profeta. Era una donna bellissima, con lunghi capelli biondi e occhi azzurri. Rocco rimase senza parole. Era la sua ex fidanzata, che lo aveva lasciato anni prima perché non sopportava la sua passione per i libri Urania. Sei tu il profeta? Le chiese Rocco, incredulo. Sì, sono io. E tu sei il mio nemico. Ti ho sempre odiato, Rocco. Odiato per il tuo lavoro, per i tuoi denti perfetti, per i tuoi libri Urania. Ti ho lasciato perché volevo distruggerti. E ora ho il potere di farlo. Ho creato questa setta per annientare tutti quelli come te che amano i libri Urania. Sono libri blasfemi che parlano di mondi impossibili, di creature mostruose, di scienze eretiche. Scienze. Sono libri che corrompono le menti e le anime. E io sono qui per purificarle. Brava, brava. Porta la purificazione, cara. Probabilmente un... Sei pazza, esclamò Rocco. Sei pazza! I libri Urania sono opere d'arte, sono fonti di ispirazione, sono sogni di libertà. Non puoi distruggerli, non puoi uccidere chi li ama, non hai il diritto di farlo. Non solo ho il diritto, ma ho anche il dovere. Il dovere. Sono la messaggera di Dio, sono la sua spada. La tu sei il mio ultimo ostacolo. Addio, Rocco. La donna alzò la mano e mostrò a Rocco un libro Urania. Era Il pianeta dei draghi. Lo aprì e Rocco vide che le pagine erano vuote. Capì che era un altro libro truccato e si preparò a morire. Ma in quel momento Rocco ebbe un'idea. Lanciò la granata verso la donna e le urlò. Ti faccio vedere io il pianeta dei draghi. La granata esplose e il libro Urania si accese. Le pagine vuote si riempirono di immagini e di parole. Era come se il libro prendesse vita. Da esso uscì un drago enorme che sputò fuoco sulla donna e la bruciò. Poi si volse verso Rocco e lo guardò con occhi benevoli. Sei tu il mio creatore? Gli chiese il drago. E lui giustamente. Un lettore. Un lettore che ama i libri Urania, rispose Rocco. Ti ringrazio, lettore. Mi hai liberato dalla prigione del libro. Ora posso volare nel cielo e vivere la mia vita. Questo è il trono di Vuoi venire con me? Volentieri, disse Rocco. Rocco salì sul dorso del drago e insieme volarono via, verso il pianeta dei draghi. Che famoso pianeta. Lasciarono dietro di sé la base del profeta. E poi dissero, in fiamme. E anche tutte le edicole e i libri Urania che non avevano più bisogno. Perché ora Rocco non leggeva più i libri Urania. Li viveva. Tutto per Rocco. Bravo. Grande storia. Che storia avvincente, ragazzi. Con la spada in pelle. Mi sono venuti veramente dei brividi d'emozione. Allora, prima di tutto ringraziamo George, che è colui che ha prestato George la voce. Comunque, grazie a una certa grazie impara a recitare. Ma grazie anche alla scienza. La scienza, la scienza. Insomma, vabbè, ragazzi. Allora, salutiamo tutti quelli che si sono palesati fino adesso. Sì, prego, Mercedes. Lara, Mister Zero, sempre Laura e Luca S. Ah, cioè, Lara due volte. Sempre, tutti sti miliardi per un generatore di stronzate. Esatto. Mister Zero dice Rocco la spada in pelle, invece Lara. Scienze. Attenzione, infatti, le scienze di questo bellissimo racconto di Libri Urania, che praticamente è l'estratto di quello che è uscito fuori dalla puntata di mercoledì scorso, perché chiaramente Puccio, che oggi è stato ucciso dalla cistifellea, praticamente è stato operato a cuore aperto. Esatto. Cioè Puccio ogni settimana se fa un giretto al pronto soccorso. Una volta era Gualdi quello che si faceva i giretti al pronto soccorso. Ma mica posso fare tutto io. È vero, qualche volta devono fare anche gli altri, hai ragione. Che perché penso che Gualdi ha finito i digiuni, nel senso che ogni tanto bisogna farli, i digiuni terapeutici si chiamano, bisogna farli. Il grosso problema è che manca Puccio, manca Sbano, sta trasmissione durerà la metà stasera. Però io vorrei fare un infatti l'abbiamo riempita con la storia di con la storia, 6 minuti almeno. Sei minuti che sono sembrati una vita intera. Vabbè, ma tu c'hai pazienza per niente. Sei troppo abituata su TikTok. Basta TikTok. Basta, ti hai dato dei ritmi che non sono reali. Esatto. E poi, tra l'altro, questa sera col fatto, cioè questa storia è stata comunque molto, molto più avvincente rispetto all'ultima, cioè tutta quanta la serie di No Activity che sta su Amazon Prime. Tra l'altro, recensita ultimamente. Ho visto cose. Ragazzi, cioè. Quindi cercate Ho Visto Cose su Spreaker o sugli aggregatori podcast. Ma quindi Marco Gualdi viene a fare le trasmissioni solo per fare la marchetta del tuo programma. Brava. E anche tu vieni solo a fare le trasmissioni e parla solo agli altri, quello poi ovviamente che una settimana sera. Chi è che dite 6 minuti? Chi è che 6 minuti? Nudi dovete essere, tutti nudi. Sì, dopo la puntata del lunedì scorso di Mono avete fatto l'amore, ragazzi, mi raccomando. Comunque io vorrei invece porre l'attenzione e aprire un rapporto di empatia e solidarietà verso Will Smith, perché praticamente quest'uomo ha commesso un errore nella sua vita, anche grave volendo, perché insomma sicuramente di fronte agli altri. Ma perché stiamo a parlare di Will Smith, che sono passati anni? Ma poi perché tu devi interrompere? Io Mercedes non voglio più in trasmissione. C'è una rubrica, cerchiamo un'altra persona che fa la rubrica della morte. Facciamo registrare la rubrica. Esatto, la famo registrare a parte. Comunque, volevo aprire un atto di solidarietà verso Will Smith, perché quest'uomo ha commesso un errore anche grave di fronte al pubblico, schiaffeggiando il tizio che aveva, insomma, cioè Chris Rock, perculato la moglie, insomma, e da lì in poi è iniziato un calvario infinito per questo. Allora, la moglie l'ha mezzo rinnegato. No, la moglie già l'aveva rinnegato, erano separati in casa, ma nessuno. Ah, già, allora, ok. Ecco perché lui rideva quando lui ci apriva per culo la moglie. Poi si è reso conto che la moglie l'avrebbe potuto evirare passando dalla bocca, e quindi giustamente detto, sai che c'è, vado a dare uno schiaffo a chi. Vabbè, comunque la moglie l'ha rinnegato, poi erano detto è un gesto che non la c'è, ragazza non mi ha lasciato, è colpa mia. È imbarazzante fare la trasmissione con Michela stasera, non so. So che è Mercedes, però a volte è volevo pure Michela, fare sì. Un po' di che so, un po' di allora il biopic che dovevano fare sulla sua vita l'hanno cancellato, un film che doveva fare l'hanno cancellato, nessun produttore vuole più avere a che fare con lui, gli amici non gli parlano più, l'edicola sotto casa gli sputa in faccia, insomma pare che sto Will Smith in questo momento è in cura per la depressione, anche non esageratamente, posso dire, cioè francamente sì, no, nel senso io capisco che lui ha commesso un errore, però voglio dire, cioè, dipende, se tutte le volte che una persona commette un errore di suo tipo punti è una brutta storia, insomma, diciamo. Quindi volevo un atto di solidarietà per un uomo. Salutiamo Walter che scrive sulla chat per nostra alterna, Walter Svano, sì, che ci dice che fa l'ascoltatore se la linea lo tiene. Va bene, speriamo che la linea lo tiene. Comunque dicevo che insomma ci ha regalato tantissimi bei momenti, tipo che ne so, il principe di Bel-Air. Ehi, questa è la maxi storia di come la mia. No, quella è Jovanotti. Capovolta, sotto sopra. Ah, no, era lui, no, era lui. Lei la canta qua. È lui. Sì. Sei tutto su due piedi. Vedi che canti. Vedi che canti. Era di Willy. Che tranquilla. Tra l'altro, faremo fare una canzone. Tra l'altro, venerdì, insomma, si va in sala di registrazione con Michela che canterà. Che è come diceva Francesco, giustamente, nell'ultima puntata di Runtime by Night. quando Michela canta, Simone esce di casa per dire: no, non sono io che la sto picchiando. Questo è. Però Enrico ha detto che io non canto male. No, quindi... non ha detto che non canti male, ha detto che se si, tutto si sistema. Tutto c'è un sistema. Gli amici fanno queste altre. Come dissero nel film del, non so se vi ricordate, successivamente alla storia di Alfredino, quello, il bambino che purtroppo poi è scomparso dentro il pozzo. Gli americani avevano fatto un film su una storia simile, però l'avevano americanizzata, e c'era sempre questo bambino incastrato nel pozzo e lo raggiungevano, però avevano paura che tirando si sarebbe rotto, cioè nel senso si avrebbero rotto le ossa, e c'era il tizio, il capo di tutta l'operazione incredibile, ha detto: tutto quello che si rompe si può riaggiustare. Una brutalità incredibile, cioè. Ve lo ricordate il film? No, non l'avete mai visto. Ricordo che c'era un film, ma no, non penso di averlo seguito. Io sì, l'ho visto, l'ho visto. Comunque, Mr. Zero dice: lo schiaffo più caro della storia, praticamente. Eh sì, sì. E Lobby sottoscrivo, non so se lo dice perché io canto male e quindi tu esci oppure per tutte e due le cose, entrambe le cose. Esatto. Cioè, nessuna esclude l'altra, tutto sommato. Dice, con una risposta dell'arte. Con una risposta, io me la potrei cantare tutta la canzone del principio. Ma perché dovresti? Non c'è bisogno, insomma. Esatto. Comunque, noi mi facevano una domanda, cara Mercedes, perché dicevano: sì, ma a parte che sono veramente tutti molto colpiti dal tuo incredibile accento non italiano, ma romano, insomma, quindi cioè, dicono: ma da quanti anni è che sei in Italia, cara Mercedes? Tu che vieni dalla Trasnistria. Da quando ricordo. C'è stata la perestroica? Ero viva quando c'era la perestroica. Prima eri morta. Poi è arrivato uno che ha barba, ha detto: alzati e cammina. Parla ancora bene l'italiano, quindi non dice ero nato, ero viva. No, cioè, l'accento l'ha imparato, ma ancora il. Comunque noi ci abbiamo, ma a parte tutto, io devo imparare dalla nostra mitica Olga, che è una nostra amica. Catturatrice di cani che viene da Mosca, quindi da Russia, di Russia, che quando parla ti fa parla un russo romano che ti fa uccide proprio. Io la adoro. Beh, il migliore è Nicola Jiang, che è un cinese che parla pesarese, quindi insomma è il meglio di tutti. E comunque mi chiede: Mercedes in Italia da 300.000 chilometri. Mi chiedevano poi altre robe su Mercedes, ma me le sono dimenticate adesso. In questo momento, comunque, più che altro, ecco, questa cosa dell'accento ci tengono molto. Ah, e volevano sapere, ovviamente, dato che sei in una trasmissione pop, e comunque magari il pop fa anche riferimento agli anni 90, nella Transnistria dove stavi tu negli anni 90, quali erano le vostre icone pop? Le stricone pop erano ovviamente Pupo. E ricchi e poveri, ovviamente ballati a ritmo di techno, come Tecno, come il fantastico Ciao 2020, che Ciao 2021 anche. La vita, soprattutto Ciao 2020 ci ha cambiato la vita, e poi purtroppo Ciao 2022 gliel'ha cambiata a loro, però ma succede. Succede, poi capito. Senti, tutto questo, allora, che poi in realtà tutto il bordello che è successo in Ucraina è stato perché Putin si era rotto il cazzo del programma ogni anno. Sì, perché preso per il culo, faccio la guerra. Non aveva la forza politica per cancellare il programma, esatto, però ha fatto la guerra con l'Ucraina. Il programma, lui ha chiuso il programma dicendo che comunque era il presidente dell'Italia, lui. Sì, più o meno una cosa del genere, insomma, quindi ci avrebbe invaso, e infatti qualcosa ha invaso. Vabbè, quindi Pupo, Ramazzotti pure, dai. No, Ramazzotti di meno, più Pupo che Ramazzotti. Cioè, se io vado, che ne so, un Toto Cutugno, incontro Cutugno. Una donna di 40 anni del Transmistria, della Transistria, come si chiama, e gli dico: tra Pupo e Ramazzotti, Pupo vince Pupo. Pupo e Toto Cutugno vince Toto Cutugno. Anche io, però, da Toto piccolo. Cutugno e Adriano Celentano vince Toto Cutugno. Da piccolo, comunque, anche io c'entra poco, ma anche tu da piccolo eri vivo. Ero vivo? Eri vivo durante la perestroica? Ero vivo, ma anche io da piccolo avevo la radio a Transnistria. Ce l'avevo anche io. Che tristezza, io a questo punto, dato che siamo in pochi, lancerei il momento importante della trasmissione. È arrivata la posta, del cuore di soggiato di Mercedes. Hai problemi di cuore, scrivi a Mercedes. Lei risponde a tutti nella sua rubrica del cuore. bellissimo questo jingle. Perché io prima di iniziare, attento. No, volevo chiedervi ma soprattutto che si rompe così proprio, cioè, tra... infatti, come i grilli di volevo chiedervi notizie del maniaco del 64. Ma anche noi perché è arrivata posta dicendo insomma, ma ci sono notizie del maniaco del 64 e di questo insomma ne parleremo nelle prossime puntate, perché abbiamo provato a contattarlo, quindi probabilmente vedremo insomma se maniaco del 64 storia, fatti vivo perché abbiamo perché tu fatti vivo, cioè essi vivo, sì, vivo. Sì. No, eri vivo pure tu nel 64. Non essi morto, ma eri vivo. Maniaco del 64, tu eri vivo durante la perestroica. Ma la domanda ovviamente a tutta la gente che incontreremo domani, chiederemo sì. Ma tu durante la perestroica eri vivo? No, lui era vivo durante Solidarnosc. Ah, ok. Addirittura. Comunque, vabbè. Al ma di là come hai detto Solidarnosc? Perché la gente non ti può guardare. Ridi Solidarnosc. Solidarnosc. No, prima l'hai detto con più, con più cattiveria. Solidarnosc. Certo. Esatto. Vabbè. Comunque, volevo ricordare che se avete problemi di cuore e volete ovviamente chiedere consiglio, certo, non quei problemi di che tratterò così Fredi il cardio, no, anche noi possiamo risolvere, ma in generale problemi del cuore, in generale comunque, cioè, la rubrica si chiama la rubrica del cuore disagiato, quindi se avete problemi di cuore e volete mandare un audio messaggio a Mercedes ovviamente tirerà fuori una carta dal mazzo di briscola e ovviamente vi dirà quali sono le soluzioni. Sei pronta? Prontissima. Estraggo anche io la carta? Sei pronta? Guarda, oggi abbiamo due messaggi come l'altra volta. Taglia. Ecco, ok. Allora, vado? Allora, prima dobbiamo leggere il messaggio. No, prima dobbiamo leggere il messaggio. Prima il messaggio. Perché deve entrare il flusso nella carta. Brava, il flusso. Ciao Mercedes. Volevo chiederti, il mio compagnetto di pacco mi fa vedere il pistolino. Lo devo dire alla maestra? Questi sono problemi, ragazzi. Questi allora, sono questa roba seria. Estraggo la carta. Posso circoscrivere il background della situazione? Innanzitutto non si sa perché il bambino a un certo punto gli accelera la voce, però vabbè, non fa niente. Sono questioni tecniche della registrazione. Evidentemente gli era sfuggito il play. Il cellulare che è ancora fa. È un cellulare cinese. E quindi? E che niente, questo. Ah, hai finito con te? Io ho circoscritto. Vabbè, sì. Parlate sempre al microfono. Zero. Vai, qual è la carta? Allora, la carta è il 4 di prezzemolo. E questa è tosta perché quella è una carta. Allora, il 4 di prezzemolo col pistolino del compagnuccio. È una brutta cosa. C'abbiamo il nome del compagnuccio? No, non ce l'ha detto. Non è una bella cosa. Del compagnuccio. Non c'abbiamo neanche il nome del bambino, se è per questo. Allora, il nome del bambino. Pistolino. Ma perché? Quindi è un bambino e l'altro bambino gli fa. È due bambini, so, un bambino e un altro bambino. Sono tutti e due. E allora solo che durante la lezione di scuola questo gli fa vedere il pisello praticamente. E poi anche il tuo, no? Fate a spadate. Fate insomma, pesce a pesce, come si dice. Sì. Che poi è il significato del 4 di prezzemolo. Ha diverse, viene così interpretato. Se incroci, il prezzemolo sul pesce ci sta bene. No, quello non è il prezzemolo che va bene. Prezzemolo, sì. Lei lo mette sul prezzemolo. È l'origano, il rosmarino che ci va. Ma noi ci mette il prezzemolo, il transistor d'Estonia lì è. Ma il prezzemolo sul pesce sta benissimo. Vabbè, poi considera lì loro hanno l'aneto e mettono l'aneto dappertutto. Anche la neve a volte. Ucrop da tutte le parti. Neanche più la sua lingua sa parlare, ricordiamo. Quindi lei si trova in questa situazione di transito tra non so parlare italiano e non so parlare il transistriano. In compenso non so neanche cantare. Quindi fa tutto. Aneto e ucrop. Vabbè, ma insomma, sto povero bambino. Io comunque non lo direi la maestra, perché secondo me poi la maestra allora si mette in mezzo. No, la maestra possono anche non saperle queste cose, non hanno fatto finta di ignorarle, esatto. per generazioni, la dovete cavare da soli. E lasciamo che le maestre facciano, rubino il loro stipendio e che voi bambini ve la vediate da soli. E niente, secondo me lì che devi ti senti o fa una gara dei pistolini, oppure se rincontriamo fra 10 anni. Quanti anni ci avranno? Le sono buttate. È quello che volevo dire io. È un bel consiglio. Ma no. Scusa, non si dicono queste cose. Ma scusate, ma perché? Ma scusa, non può essere pure Obi-Wan contro Darth Vader pure, cioè, pure stessa cosa. Se ma non è che uno è il padre dell'altro? No. Hai ragione. Quindi no, due coetanei. No, perché il complesso del quindi tipo... c'è pure l'incesto, insomma, alla fine. No. Incesto no, allora io dici, senti, facciamo una cosa, noi adesso siamo piccolini. Incesto di banane. Non possiamo fare altro che guardare il nostro pisellino. Quindi pistolino, quando poi... non ha specificato, pistolino. Io rimarrei sul... pistolino. E quando poi siamo maggiorenni ci incontriamo e decidiamo il da farsi. Esatto. Ci diamo la putta fra 10 anni, stessa ora. Sì, capito. Poi, se uno dei due porta la vasella, insomma, è tutta un'altra storia. Vabbè. Walter, tu stai guidando, non guardare le foto. Comunque, volevo dire, perché lui guida e guarda le foto, ma Walter sì, è multisblighito. Perché qui c'è una Rachel che dice I'm a vegan but my vagina isn't, che ci ha messo Mr. Zero. Vagina. Vabbè, ma lei che ne sa, non lo sa l'inglese. Lei è russa. È da Transnistria. Ugrop. Chissà come si dice vagina russo, non lo so. Si dice Ugrop. Come non lo sai? Non lo so. Lo sai perché ti sei dimenticato. C'è il secondo messaggio. Gentile donna Mercedes. Donna Mercedes. Mi chiamo Giulia. Giulia. E sono una studentessa universitaria di 22 anni. Sto svolgendo un anno di Erasmus in Svezia. Vabbè. E convivo con 3 ragazzi svedesi, anche loro studenti. Sì. Inizialmente mi sono trovata in difficoltà. Certo. Soprattutto quando mi facevo la doccia e loro 3 a turno si sedevano sul vano. Mi guardavano. Queste storie particolari. Si masturbavano. Addirittura. Ho iniziato a ricambiare i loro sguardi vogliosi ed a toccarmi anch'io. E vabbè, allora è un film porno praticamente. Ora ho iniziato a trovare dei bigliettini d'amore sotto il cuscino. Amore, si chiama amore quello fatto. Da parte di tutti e 3, ma io non so decidere. No. Georg è bello e virile. Georg. Sven è un dio del Valhalla finico, ma ce l'ha piccolo. Mannaggia. Mentre Karl è lievemente sovrappeso, ma è così dolce. Ora, la mia domanda è questa. Triste. Secondo te, cara Mercedes? Posso depilarmi sotto la doccia o è meglio andare dall'estetista? Ah, questo era il problema, cioè. Quindi De Georg, Sven e quell'altro non si chiamava? Karl. Insomma, non gliene frega niente alla fine, insomma. No, forse... vabbè, te li tieni tutti e 3, brava. Bisogna la carta, scusami. La carta, Mercedes, insomma, devi rispettare le regole. Che poi magari qui esce una carta. Era uscita la busta della monnezza, organica. Quindi ti puoi depilare a casa mentre loro ti guardano e non so, magari fate un nuovo gioco. No, oppure tu ti depili sotto la doccia e loro vanno dall'estetista. Comunque io sei invidiosa, com'è che si chiama sta ragazza? Giulia. Giulia, io ti invidio molto. Vabbè, ma tu non c'hai 22 anni. Appunto, io non c'ho 22 anni e non c'ho 3 svedesi che mi trombano a turno. No, a parte che nessuno ha parlato di trombare, esatto. Quindi diciamoci la verità. Hanno detto che si toccano, quindi le cose pure deve essere anche imbarazzante, no? Cioè, nel senso, invece ma allora dai, su Giulia, sveglia, destartagli addosso. Certo, è uscita la monnezza organica, devi per forza con gli altri. E insomma, è sempre questo, è sempre qualcuno che deve saltare addosso a qualcuno. Infatti, ma su, ma dai, cioè ci sei andata pure fino a Norvegia a fare l'Erasmus. Svezia a fare l'Erasmus per non trovare. Ma perché in Transnistria non c'erano i libri di geografia. E guarda quelli che si masturbano. Vuol dire sta sul 64 a Roma. Questo è un bel suggerimento. Quindi torna Giulia. Giulia e vai sul 64. Agisci, gli dici: sentite svedesi, avete rotto il cazzo. Avete rotto il di sempre con questa cosa platonica. Che poi platonico de che? Cioè, mica è platonico. Quelli comunque stanno lì e si masturbano. Quindi. Masturbonico. O partate dalla tazza del water e combinate qualcosa, oppure tutti insieme la tazza del water, tipo sorgo la tazza del water. Bravo. E ricordiamo, insomma, che la tazza del water ha a che fare con la storia di prima, però Giulia, no, sempre, Giulia, sempre. Dai, tante da fare, su. Ma mi raccomando, tu. Vabbè, ma magari lei c'ha un'educazione cattolica, no, timida. Giulia, ti voglio risentire fra un paio di settimane e voglio sapere com'è andata. Cioè, fai richiamo all'interrogazione, addirittura l'orgia, no? Certo, sono perché lei è indecisa su chi. Nonna ha detto non se decidere. È indecisa se tutti e tre. Non decide, Giulia. Acchiappa non decide. Tutto. Acchiappa tutto. Spegni la luce. E quello che però sta. Sven, allora, Sven c'ha piccolino, però. Non fa niente. Quell'altro è un bozzicone. Non fa niente. E Jorg, che non mi sembra proprio un nome svedese, devo dire la verità. Vedi, pure Lara vuole sapere. Giulia, mi raccomando. Giulia, facci sapere. Giulia facci sognare soprattutto. Facci sognare almeno tu. Questo sì, vorrebbe infatti. Dire Michela, giustamente. E vabbè, ricordatevi di mandare i vostri messaggi audio, insomma, di ogni genere, per la posta del cuore disagiato di Mercedes, che è qui con il suo mazzo di carte improbabile, con il quale ovviamente vi darà ulteriori risposte. Detto questo, Gualdi, hai qualche tema pop per noi? Il tema pop che in realtà è anche un molto pop oggi, è molto odierno. È pop oggi. È un pop, no, cioè è una, diciamo, un tema classico che va avanti da tanto tempo, ma che in realtà ne voglio parlare oggi. Vai. Tra il serio e il faceto. In realtà c'è una sua cosa seria. Più serio o più faceto? 50 e 50. Allora, diciamo che il tema è la bestemmia. Ah, attenzione, attenzione. Questo è un tema sul quale io sono molto ferrato. È molto ferrato. Allora, questa cosa, questa riflessione mi è venuta idea, mi è venuta in mente qualche giorno fa, quando non so quanto sia pop è tutto questo, però quando il buon degli anni 80 70, sempre sta sempre molto pop, è vero, è pop quando Francesca ha postato quel meme video riguardo quella serie televisiva turca dove il protagonista, questo nome, la serie si chiama Kubra se non sbaglio, e il protagonista si chiama Diokan. E si chiama Diokan. Vabbè, si chiama così, non è che è colpa nostra. Che mi ha fatto pensare, innanzitutto. Diokan. No, il cognome Khan. mi ha fatto pensare a questa cosa che finalmente, forse dopo secoli o decenni, abbiamo capito da dove viene la biastima. Quindi, no, etimologicamente. Da dove viene il. Comunque, sì, ma fallo parlare. No, fallo parlare un po'. Io, ma se sono tre ore che lo sto interrompendo. Io. Comunque, diciamo, da dove viene il modo di dire bestemmiare come un turco? Cioè, lì, cioè, non è che se bestemmiano, si chiamano tra di loro. Allora, io su questa cosa dissento, perché c'era un periodo, era se fumare come il turco, bestemmiare come il turco, mamma li turchi. Bestemmiare. Arrivano i turchi. Bestemmiare. C'è la serie televisiva su Canale 5. Si chiama? Che si chiama Mamma li turchi. Mamma li turchi. Vabbè. Comunque, mamma li turchi, bravo. Bestemmiare l'abbiamo capito. L'abbiamo capito, perché in realtà non bestemmiano, ma si chiamano tra di loro. Esatto, quindi, allora il nome, loro si chiamano per nome, e la gente dice: oh, ma questi bestemmiano. Ho capito anche che è successo. L'equivalo l'ha creato un veneto. Cioè, è andato lì, Diokan, e questo che bestemmiano. No, si stavano a chiamare tra di loro. Ah, com'è la bestemmia? No, quella non è. No, vabbè, comunque non esageriamo. Però, a parte questo, allora, il 2023, sì, tu devi sapere che il 2023, non so se è già successo prima. È stato l'anno che nella storia. È stato l'anno che nella storia in cui la bestemmia è stata sdoganata al cinema. Attenzione. No, attenzione. Guarda che secondo me qualcosa già c'era stato. Non lo so, però quale film? E 2024, perché il film Comandante col nostro Favino, praticamente a un certo punto esce. Che film è Comandante, scusa? Quello dove lui fa il comandante di un sottomarino durante la Seconda Guerra Mondiale. Ah, sì? E a un certo punto esce una bestemmia. Non ho ancora capito chi la dice. Forse probabilmente Favino, perché interpreta un veneto. Se lui è sfuggito al montatore. No. Aspetta. E praticamente, cioè, lui è veneto, quindi sarebbe. Mi aspetto che stare. Anche perché fa un film che dura X ore. E un veneto che non bestemmia. È impossibile, è irrealistico. Ma poi, tra l'altro, anche il film che è in uscita o già uscito di Pietro Castellitto, Enea, c'è pure una o addirittura più bestemmie. Quindi, tra l'altro, il CEI, quando hanno fatto non so che concorso, si sono indignati. No, hanno detto no, è una cosa artistica. Quindi anche passato. Vabbè, ma perché sai quante bestemmie diranno dentro al Vaticano? A che là, Diokan? Perché quelli chiamano il turco. Infatti, lui stava semplicemente. Ma monsignore, chiamate il turco. Quindi, pizzi, hai capito questa cosa? Allora, diciamo che riprendiamo possesso di un nostro diritto, che è, insomma, un inalienabile diritto alla biastima. Perché, insomma, tutto sommato, alla fine chi è che non ha biastimato nella propria vita, insomma. Tra l'altro, non so chi oggi mi va linkato qualcosa che c'ha a che fa con le parolacce, se vanno punite, se vanno sgridate o se sono parte integrante del nostro rapporto con la comunicazione, fanno parte del nostro modo di esprimerci storicamente, proprio a livello antropologico. Sarebbe interessante fare questa scoperta. Tu cosa ne pensi, Mercedes? Voi, per esempio, in Transnistria, cioè ce l'avevate la... No, vabbè, che voi non c'avevate la religione, no? Perché non si poteva, era giustamente... Transistria, cioè nel senso, essendo un paese comunista, diciamo, la religione è l'occhio dei popoli ed era... No, insomma, poi le chiese erano state abbattute. Io però, guarda, questa è una cosa che io apprezzo molto. Ci hanno fatto dei... dei centri commerciali, parcheggi ovunque. No, ci hanno fatto delle scuole, delle terme per uomini. Ah, bravi. Nudi che si toccavano. Ah, tutti uomini tutta nudi. Tutta la Russia questo è successo, non solo in Transnistria. Cioè, nel senso, era proprio, cioè, ogni chiesa diventava una terme. Esatto. Quindi era termite è diventato un terme. A parte il Cremlino, che credo che sia stato impossibile, ma vabbè, il Cremlino era la casa del governo, cioè nel senso, no, ma e questo mi interessa sta cosa. Quindi era proprio una scelta politica. Era Stalingrado, no? Era stato spostato tutto a San Pietroburgo. Ma quando? Quando c'era Stalin. Ma che c'era? A parte il microfono sta là. Quando c'era lui, okay, che erano state buttate giù tutte le... Vabbè, comunque, chiese, al di là di tutto, cioè nel senso, se io butto giù una chiesa e ci faccio delle terme, e su ogni chiesa faccio delle terme, è proprio una scelta politica, cioè quasi sì. Ma poi sorge la domanda, lo sfregio proprio, cioè guarda, lui ci viene a pregare, io invece sciacco, esatto, le palle. A questo punto poi mi viene la domanda: prego. Ma l'acqua delle terme a quel punto è santa? È certo, cioè, è benedetta da Stalin. Sì, certo. Stalin. Okay. S apostrofo, anzi ST apostrofo. Alin. Sapete? Poi tra l'altro c'è un videogioco su Steam che sono indeciso se comprare o no. Compra. Tu nell'indecisione compra. Che si chiama Sex with Stalin. Ah, vabbè, ma c'era anche un ristorante a Mosca. Si chiama Sex with Stalin. Anzi, no, a San Pietroburgo, che si chiama Sofilicia, che non so se c'è ancora, ma credo di sì. Sono morti che tutti. Praticamente c'aveva tutte queste immagini sexy di Stalin e di Lenin, che facevano così e cosacce, pure i quadri. Era molto irriverente, molto... Ah, secondo me sto Stalin era uno zuzzone allora, alla fine. No, ma era, cioè, era tutto voluto. Era satirico, fatto, vabbè, questo l'ho capito. Gli avevano fatto, che ne so, il busto col giubbotto di pelle, tipo Fonzi, il petto di fuori, sì. E il gilet di pelle, il petto di fuori, e, insomma, era ricordiamo che Francesco ha una bellissima foto che mi ha fatto a Reggio Emilia, insomma, sotto... Sempre meglio del gilet di fuori e il petto di pelle, insomma. Sì, sì. Okay. Però sì, da noi non c'erano le bestemmie perché ovviamente non c'era Dio. No, però se diceva mannaggia Stalin, lì potevi andare a finire in galera. Mannaggia Stalin, finivi subito in Siberia. In Siberia. Quindi andavi in montagna sulla settimana bianca. Andavi a fare la vacanza in montagna. Ah, vedi, andavi a fare la vacanza in montagna, ti davano il goulash, insomma, stavi a posto. Il goulash, sì, come no. Era una cosa buona. Sì. Io l'avrei fatto, insomma. Anch'io l'avrei fatto, però i miei genitori mi hanno dato gli schiaffi alle bocca per non parlare. Alla bocca. Non è servito poi, Non è servito niente. Gli hanno fatto perdere l'uso della bocca. Però sono riuscita a emigrare. Forza di schiaffi questo. Okay. Sono venuta qui. Che bello. Che noi non è che ci volevamo, però, detto il vero. Però, insomma, alla fine, sei stata ben accolta? Insomma, non tanto, perché comunque la gente non mi capiva. Io non capivo loro. Ma continuiamo a non capire a volte, cioè, però... Guarda, io sono sposato da tantissimi anni... Con Mercedes? No, con mia moglie, Michela. Pure lei non si capisce quello che dice. Tra l'altro, lei ha un problema... della sintassi, non mette il soggetto, lei ti racconta tutta la storia, anche la lingua russa, tu sei lì e dici ma che cazzo stai a dire, ma di che cazzo parli, cioè quello è il grosso problema, però insomma, perché il soggetto è nella sua testa, esatto. Tra l'altro non leggi tua moglie nel cervello, e bisognerebbe aprire, non leggo in sua testa, non leggo sua testa io, e quindi ho capito. Tra l'altro nel fine settimana, nella prossima puntata di Sordinati Informati, parleremo di The Call of the Wind, che poi in italiano sarebbe Il Richiamo della Foresta, esatto, non so per quale motivo. Of the Wild. Ah, Wild. The Wild, è vero, no, The Wind, è vero, hai ragione. Wild. Ecco perché. Ah, allora c'è senso. Ah, sì. È vero, richiamo tutta della selvaggezza, vita, è vero. Tutta la tua vita hai creduto che non. No, io, per me si chiamava Richiamo della Foresta perché io ho letto il libro da bambino e si chiamava Richiamo della Foresta. E è un libro mai letto. Che porto con me come se. Un... C'è una versione Urania Maledetta? No, però, se, però dice che c'è una versione che se tu apri non c'è scritto niente. Si nascono i draghi. E lì sono cazzo. Sì. Eh sì, perché si attiva un sciacquone con coltello. Esatto, se tu gli tiri una bomba a mano, poi esce. Della selvaggina, Lara, mitica Lara. Della selvaggezza. Della selvaggina. Della selvaggina. No, no, no, basta con questa cosa. Comunque, e infatti, cioè, il richiamo praticamente della tartina con il. Come si chiama lì la. Con la selvaggina. Con, sì, come si chiama? Il caviare. Con la selvaggina. Sì, ho capito, ma come si chiama? La tartare. La tartare. Come si chiama? Il patè. Non mi veniva, giustamente. Il patè. La selva di Gina, sì. La selva di Gina, e lì è una brutta storia, perché Gina, ricordiamo che non si depilava sotto Irina la doccia. Irina Vagina, che è una canzone. Irina, io anche c'avevo un'amica che si chiamava Irina. Beh, Irina Vagina, che era una canzone di Giamendo che noi abbiamo passato per tantissimi anni. Irina, potrei anche avercela ancora da qualche parte. Esatto, sì, una canzone fantastica terribile. Quella canzone. È vero, è vero. Beh, fantastica, la canzone era una merda, però a noi ci piaceva perché bellissima. Faceva ride, insomma. Bellissima, bellissima. Tutto sommato, perché va bene. Francis Svenia faceva ride tantissimo. Eh sì, no, ma quella era una hit. Una hit della Transistria. Esatto. Cioè, stava proprio nella top 5, perché non c'erano più di 5 canzoni. No, una sonata di 5, esatto. Quindi se tu arrivavi, che ne so, quinto nella top 5, eri una merda, cioè, eri l'ultimo. Sì, infatti. Perché c'erano solo 5 canzoni. 5 canzoni, ma poi come si ascoltavano, è difficile che riuscivamo ad ascoltarle, eh? Nel senso che non c'avevamo niente per ascoltare, non c'avevamo radio, televisione, niente. Le cantavamo noi, le inventavamo noi. Ah, che bello! Ecco perché c'erano 5 canzoni che poi ruotavano. Sì. Cioè, che in realtà non c'erano, queste canzoni si trasformavano in continuazione. Cioè, esatto. Da bocca a bocca diventava. Esatto. Cioè, esatto. Tipo una canzone d'amore, poi dopo diventava. Una canzone di metal. Insulti. La canzone metal di insulti, esatto, come la gara di insulti, la sfida di insulti di Monkey Island, insomma. Esatto, io sono la gomma e non mi ricordo, in realtà era una canzone di Pupa all'inizio, quella lì che poi evolve, quella di Monkey Island, esatto, sì. Quella cosa, la canzone di insulti. Ah, beh, d'altronde Pupo che cantava Pupo? Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, gelato al cioccolato, che secondo me posso dire che era, però il Pupo a me non mi piace, è una brutta persona. Questo però non lo dici in Transistria, perché non si parla male delle ma persone. Non so più in Transistria, non si parla male delle persone disagiate innanzitutto, quindi... Non è disagiato, quello è un gran furbacchione. Beh, forse più disagiato di tutti era Riccardo Cocciante, che era affetto da nanismo. Avete mai delle manine quelle di te? Da onanismo. Da tutto un po' piccoletto, nanetto. Però c'era una. Io l'ho visto. Però c'era una capoccia gigantesca. Io l'ho visto perché? Alla prima del gobbo di Notre Dame. Uh-huh. Non mi sembrava così. Era lui il gobbo. Visto che fai il gobbo. Alla fine dello spettacolo. Ma scusi. Ma lei. Ah, ma lei è il gobbo. Ma lei... No, veramente no. Riccardo Cocciante. Lo spettacolo è bellissimo. Vabbè, che vuol dire? Cioè, ma, cioè, la bellezza dello spettacolo con la gobbaggine dei personaggi. Dalle storture. Ma lui non faceva il gobbo. Come? Che faceva? Che faceva? Niente, lui faceva il regista dello spettacolo. Ah. Cazzo, allora. Niente. Regista dello spettacolo. Beh, insomma. Bellissimo spettacolo. È venuto pure in Transistria. E com'è che si chiama? Ma che, Riccardo Cocciante o Riccardo Cocciante con tutto lo spettacolo. Con tutto il gobbo. Però non mi ricordo i personaggi. Vabbè, manco vabbè, io. Comunque il personaggio Quasimodo, io mi ricordo Quasimodo e poi lei Quasimodo. Quasimodo. Quasimodo. Il costume da Quasimodo. Se mi capita, è ancora in giro, perché insomma è un musical. Sempre il gobbo, sempre in giro sto gobbo. Anche il nano. Perché in finale non ce l'ha una casa. A proposito di cose pop, sì. E di persone che non hanno una casa, Io ricordo i miei bei tempi a Campo dei Fiori, dove c'era il negretto che tirava fuori l'occhio. Non so se voi ricordate. Oddio. Il negretto che tirava fuori l'occhio era una cosa inquietante. Mamma mia. Perché praticamente c'era questo qui che andava in televisione e faceva solo sta cosa. Cioè lui, quel che talento c'ha, io strabuzzo l'occhio. Ma lui non è che lo diceva, faceva vedere. No, già... però se uno lo intervistava, no, magari, che ne so, ancora quel lavoro, che cosa sa fare? Io strabuzzo l'occhio. E praticamente lui si avvicinava alle persone così e i suoi occhi uscivano completamente da fuori. Posso dire che sta cosa faceva veramente schifo. Sì, sì, sì. Dai, io faceva... mi sentivo male. Cioè, faceva schifo. Quando lo incontravo io cambiavo strada. Allora c'era un amico mio. Tu cambi strada molte volte. Molte volte. Troppo spesso. Quando io incontro i fratelli goniometro. Dai, uno barometro. Barometro. Quando incontro i fratelli poi, barometro. Guarda sulla chat, Pizzi, guarda sulla chat. Che c'è il tuo amico. Sì, una roba del genere, ma molto peggio, Mister Dero, molto peggio. No, sono traumi, questi sono traumi. Come i fratelli barometro. No, poverini, hanno del disagio. Non no, è che sono pericolosi, basta non guardarli negli occhi. No, io c'ho paura. Allora, peggio, veramente molto peggio. Veramente faceva molto peggio. Faceva peggio, ti assicuro che faceva veramente molto peggio. È stato un trauma. E c'era un mio amico che una volta gli ha detto: ma se tu un giorno, mentre strabuzzi l'occhio, lui ti dà un cazzotto e ti esplode un occhio, come fai? Che sta cosa mi ha fatto ancora più senso. Cioè, oddio, ma che ci penso? Mi sento ancora più male a pensarci. No, no, no. Ma poi come cazzo fai a tirare fuori l'occhio in quella maniera? Cioè? Certo, è cascato l'occhio. Ma è morto? Eh sì, è morto di occhio strabuzzato. Occhio esploso, gli è esploso. Ok, ok. Emorragia oculare, sì, sì. No, non lo so se è morto. Di sicuro è morto Leroy Johnson, insomma, che ricordiamo. Che è andato a morire. Che ha provato anche lui a tirare fuori gli occhi, invece non so. È andata male. Ha sforzato. Secondo me più che tirava fuori, lui tirava dentro. Tanta roba tirava dentro, soprattutto liquidi. E dice che poi si liquidi, insomma, non so uscire. Non gli hanno fatto tanto bene, insomma, diciamo, il povero Leroy Johnson, che se noi vedevamo come mito da ragazzino, che ballava con la sua calzamaglia, e chi l'avrebbe mai detto che un personaggio così sarebbe finito a quattro dei bastoni a Passo Corese, insomma. Che poi non è Passo Corese, ma tu dici che era Passo Corese? Ah, no, campo dei fiori. Morto d'alcolismo, va bene, fondamentalmente. Non so per quale ragione, perché secondo me questi personaggi, alla fine, quando diventavano personaggi pop, noi li invitavamo in Italia. E quelli che non trovavano più lavoro magari in America, perché le cose non andavano, si stabilivano in Italia, gli facevano fare due o tre cose, poi se li dimenticavano e questi finivano a fare i barboni da noi. Perché c'erano i soldi, manco per tornare indietro. C'erano anche i soldi dell'aereo, capito? E quindi sparo gli Roy Johnson dal Bronx a Campo dei Fiori, sa, ha fatto un salto di qualità, tutto sommato. Sì, è meglio morire a Campo dei Fiori che nel Bronx, esatto. Soprattutto il Bronx, perché a Campo dei Fiori lo scegli tu come morire. Ma più che altro muori circondato dalla storia. Da storia, esatto. Cioè, insomma, altra cosa. Invece nel Bronx, secondo me, non lo scegli tu come morire, lo scelgono altri. Gli altri, e muori circondato da gente che ti piscia addosso. In quegli anni, probabilmente, oggi è un posto più ripulito, ma in quegli anni, diciamo, era così. E poi c'era la nostra carissima amica Asia, che. Che tra, insomma, buttasse un po' di qua, soprattutto se eri abbastanza giovane, insomma, se buttava addosso alla gente con qualche spinellino di troppo, con la voce struccicata, la nostra amica Asia ha fatto la gioia di tanti ragazzi, secondo me. Sempre a Campo dei Fiori? Cazzarola, voglia. Non l'ho mai incontrata. Ma tu, secondo me, venivi nei momenti sbagliati e agli orari sbagliati. D'altronde, insomma, però Campo dei Fiori era pieno di personaggi negli anni 90 che bazzicavano, sì, si facevano, ma pure noi si facevamo del male, perché lì c'era quel famoso pub, il Drunken Ship, dove praticamente ti davano la birra da fuori, quindi c'era anche bisogno di entrare dentro al pub. No, stavano davanti alla finestra. Che cosa che dici? Non ti sento! E infatti non si sente più, non c'è più neanche la base. Ciao, buonanotte. Ma se tu guardi a me invece di guardare il microfono, stavano davanti alla finestra. Hai capito? Esatto, sì, quello era il posto fighissimo dove noi praticamente passavamo le serate e insomma le passavamo morendo, esatto, oppure provando a morire, perché noi eravamo dei fan di Leroy Johnson. Che poi come si chiama l'attore che faceva Leroy Johnson? Non ha importanza. Noi lo ricorderemo come Leroy Johnson. E anche Maurizio Costanzo lo ricorderà come Leroy Johnson. Lo chiamava, che c'è l'eroe. L'eroe, c'è l'eroe, Leroy Johnson. Qui, dopo lo tsunami. Ricordiamo se dopo tsunami. Vabbè. Vabbè, comunque, abbiamo detto molte cose. Sì. Cos'altro vogliamo dire? Non lo so, perché purtroppo mancando Buccio. Manca Buccio. Manca Walter, mancano metà degli manca argomenti. Manca Walter. Manca. C'è Al 9000 che sta scrivendo. Ma dai. Niente meno. Asia. Lei, sì. Tra l'altro, noi abbiamo. Cioè, ragazzuoli, si parla di Saranno Famosi. Sì. Parliamo di Saranno Famosi e di quello che ne è rimasto. Cioè niente, perché io penso che siano tutti morti. Allora, parlando di Saranno Famosi, c'era la Schwarzwalkoff lì, come si chiamava quella brutta che sembrava un sorcio, quella ragazza ebrea, quella riccia. Io non me li ricordo. La Schwarz, dai, che era bruttissima forte. Poi penso c'è di non aver mai visto la puntata. No, dai, no, Saranno Famosi era carino, ragazzi. Si stava sulle basi. No. Si chiama Jen Anthony Ray. Tutto ciò che ha a che fare Jean con Anthony le musiche di TV. Ma sì, anche a me. Però poi alla fine. Poi alla fine era carino, insomma. Poi c'è stava il tizio quello col lobo, no? Come si chiama quella tromba che si girava tutto intorno? Che poi alla fine. Dato che trombone. Non, che tanto alla fine non sapeva. Lui non sapeva fare niente. Debbie Allen adesso fa Grey's Anatomy, fa anche. Fa anche di Sass, l'insegnante di ballo di Debbie Allen. Ah, vabbè, quella ormai c'ha una settantina d'anni. Anziana, penso, ma c'è ancora. Sì. Beh, lei è sopravvissuta perché giustamente faceva l'insegnante. A 9000 amava Saranno Famosi, quindi non parlare male di Saranno. No, ma io non sto a parlare male. Io sto di. Cioè, c'era quello là col trombone che praticamente gli davano il compito di vigilare i corridoi, perché dato che non era buono a fan cazzo, il preside gli aveva dato il compito di fare i figliettivini di. Insomma, diciamo di. Avviso di ammonizione a tutti quelli che andavano per corridoio la durante merda, le lezioni. Esatto. Poi c'è stava il pianista, quello là italiano. C'era quello là riccio italiano. Sì, quello ha suonato. Ultimamente è venuto in Italia e ha suonato con Geppi Pucciari. Che Geppi Pucciari si è emozionata. Perché... Guardate la mano. Voi non la potete vedere la mano. Geppi Pucciari si è emozionata. Ma chi è Geppi Pucciari? Geppi Pucciari. È una presentatrice comica. Ha invitato lui. Chissà, che poi come li vai a riprendere la canzone? La canzone che aveva suonato, che suonava durante il telefilm. E lei si è emozionata perché praticamente guardava questo programma con sua mamma. E la mamma è morta, ovviamente. Mentre guardava il programma, la canzone. Okay. No, non si ride sui morti, però è morto durante il programma. No. Sarebbe stato divertente. E poi guardi altri personaggi c'erano. Oh, questi, insomma, dai. Io proprio zero. Io non me li ricordo. No, io mi ricordo solo sti 3-4 perché. Ma io ero molto giovane. Poi io stavo in Transistria. Noi è vero, da voi non arrivava. Noi facevamo un Saranno Famosi tutto nostro. Esatto, si chiamava Saranno Famosi. No, non lo facevamo con la televisione perché noi non c'avevamo la televisione. Ah, lo faceva già, è vero. Lo interpretavamo noi. E tu puoi immaginare quando cominciavamo a cantare, a suonare, che tragedia. Le famose canzoni che. Cioè, voi veramente vi ritrovavate nel circolo dei giovani comunisti ispirati e stavate lì e praticamente facevate. Ci trovavamo, sì, no, c'era un circolo dei giovani comunisti ispirati, c'era la strada. Andavano anche tu sei venuto dalla strada, insomma. Quindi tu conosci la legge della strada, potessi fare una canzone rap. Allora, la legge della strada della Transistria. Kenneth è famoso per il modo in cui è deceduto il 2 luglio 2005. Chi? In seguito a un rapporto sessuale con uno stallone in una fattoria della contea di King. Ma chi? Chi? Kenneth. Ma chi è Kenneth? Kenneth qual è? Oh mio Dio, hanno ammazzato Kenneth! Brutti bastardi! Nello stato di Washington, nei pressi. Con la ballerina c'era. Nei pressi della città di Enumclaw. La sua storia, pubblicata su Seattle Times, fu una delle più lette del 2005. Ma quindi anche Mister un Darwin Zero. Secondo me questo. Ma chi è uno dei saranno famosi o è, cioè o ti sei drogato anche tu? Che comunque è diventato famoso, cioè beh, una morte è famoso, ma beh, morire così era una brava persona, mannaggia, ma che gli è successo? Ha messo un culo nello Stallone. No, secondo me è peggio, è lo Stallone che gli ha dato, perché è un nuovo, perché è morto di emorragie, che ne so. Nella contea di King, quindi la contea di King sarà il nuovo Passo Corese. Esatto, dopo Passo Corese c'è la contea di King, sì, dopo morire a me, se qualche a Passo Corese c'è morire incavallati incavallati alla contea di King. Povero cavallo, comunque vabbè, comunque ma il cavallo ha fatto quello da faccia fine, che stiamo degenerando altro che posta del cuore, qua stiamo proprio messi male. E perché stiamo messi male? Stiamo seduti. Siamo comodi. Vabbè, comunque. Molto comodi. Allora, saranno famosi. Tutti parlano di saranno famosi, che però non conosce nessuno. Ma chi è che parla di saranno famosi? Che poi, tra l'altro, come si chiamava nella versione originale? Fame! I wanna live! Brava! Forever. No, questo non molti lo sanno, ma il programma si chiamava Fame. Esatto, quella di cui sono morti molti degli attori. La grande maggioranza, la grande maggioranza sono morti di fame, chiaramente. Che è la morte che hanno fatto l'80% degli attori di questa serie, perché comunque non è quello che abbiamo appena detto, comunque comunque Simone, volevo ribadirlo, la maggior parte sono morti di fame, non so se no se è chiara sta cosa, però. Comunque, che cazzo era sto Kenneth? Ma tu scusa, Gualdi. Allora, tu. Ma sto Kenneth chi è? Allora, io mi ricordo d'estate, verso l'ora di pranzo, facevano Saranno Famosi. Tu, Gualdi, che te guardavi al posto di Saranno Famosi? Qualsiasi altra cosa. Giravi canale e che c'era? No, ma guarda, io non mi ricordo. Allora, Marco Gualdi non andava in bicicletta, non guardava le serie televisive. No, io non guardavo Fame. Non guardavo. Cioè, tutto il resto lo guardavo. Cioè, quello che c'era. Quello c'erano i cartoni animali. C'era. C'erano i cartoni animati. All'una e mezza a casa mia c'erano. Cioè, noi facevamo i cartoni animati. Li facevano loro. Li facevamo noi. E poi prendevate tutti i fogli di carta, li disegnavate foglio per foglio e poi ve li passavate. Correvate davanti al muro. Esatto, sì. Così è. Così, sì, proprio così. Tanta creatività. C'era una scritta enorme all'inizio della sigla, infatti no, nessuno lo sapeva, questo si chiamava Fame. E guardava Colpo Grosso Marco Gualdi. Ma non a luna. No, quello dopo. Non a luna di notte. Quello dopo, non dopo è venuto Colpo Grosso. Cioè, ragazzi, ma poi mica tutti ce l'avevano negli anni 80 la televisione in camera come ce l'avevamo io e mio fratello, eh. Quindi, insomma. No, infatti noi ce l'avevamo. Io ce l'avevo. Per dire comandi appiccicosi. Vabbè, no, comunque non è che succedevano niente cose particolari, però diciamo non che non lo vogliamo sapere cosa succedeva. Diciamo comunque che, diciamo che c'erano l'ora, una certa ora dove in alcuni canali succedevano cose. No, che quella era acqua fresca, ragazzi. Ah, ok. Vabbè, comunque c'era, guardava Colpo Grosso, no, questa l'ho già letta, scusate, e manco quello, proprio lui guardava i cartoni animati, io facevo i cartoni animati, cioè io proprio facevo ma sai che io li facevo per davvero i cartoni animati? E sognavo di uccidere Candy perché mi stava veramente no, perché? Perché mi stava ma no, ma perché? Perché sì. Candy, cioè, quel messaggio. Lo guardava De Giorgi, che era una zoccolona che si trombava tutti i fratelli, sorelle. Sì, se li trombava tutti. Invece Candy era una brava bambina. Era una gatta morta. Era una ragazza piena di principi e solare. Io l'adoravo, a parte i capelli, insomma, che erano dei capelli irrealistici, però tutto il resto. Hanno mai fatto un film su Candy? No, grazie al cielo no. Però hanno fatto su Lady Oscar. Voi ricordate il film di Lady Oscar? No. Sì, c'è il film su Lady Oscar. In Giappone l'hanno fatto. No, pure europeo mi sa. Pure? Sì. Non. Che tra l'altro Mister Zero guardava Shrek. Ma che Shrek? Mister Zero. Ah beh, perché Mister Zero Zero è giovane. Is too young, è vero, ha ragione. No, vabbè, ma che stavamo dicendo? Ah, dei cartoni animati. Io praticamente, mo vi spiego come facevo. I quaderni, sul lato del quaderno, quindi sul bordo delle pagine, io disegnavo praticamente le macchinine che correvano, saltavano e poi esplodevano. e ogni pagina era un fotogramma, quindi cambiavo e poi facevo, li scorrevo col dito, e era un cartone animato. Siamo Miyazaki qua. E no, ma oh, era figo invece. Se vuoi te lo faccio ancora. Sì, grazie. Però con le ceppe di cazzo le faccio adesso. Giro e esplodono. Okay. E poi dopo ti chiameremo. Dopo dobbiamo trovarti un nome. Cazzazaghi. Cazzazaghi. Mia Cazzazaghi. Giusto. Che belle. Secondo me, dopo il ragazzo e l'airone, che è l'ultimo film di Miyazaki, ci sarà. E ragazzi, no, lasciamo perdere. Qualsiasi cosa stai per dire, lasciamo assolutamente. Ma sarà un successo mondiale. Sì, tante cose sono successi mondiali, insomma. E invece Gualdi si guardava i cartoni animati, tipo Lupin, ragazzi. C'è una puntata Lupin, che non è stata mai più ritrasmessa, dove Lupin era nudo nel letto, nuda pure Margot, e allora lui era convinto che dai, mo sta botta. E invece lei praticamente lo droga, tipo, e lui si addormenta e lei se ne va. E quando si risveglia dice: porca puttana, neanche stavolta. La famosa droga dell'antistupro, cioè tu droghi lui, esatto, e si addorme. Esatto. Ciao. Non è la droga dello stupro, è al contrario. Esatto, nel senso, cioè, che lei lo faceva spesso questa cosa qua. Sì, Fucico, poi è Fucico. Fucico, hai ragione. Che poi era sempre lei, no? Sempre lei. E solo che a un certo punto pensa che qualcuno era convinto che, dato che c'era un nome diverso, era un personaggio diverso. Anche però, secondo me cambia un po' il colore dei capelli a un certo punto. Perché lei era con i capelli neri, ma a un certo punto diventa tipo castana, può essere, mi ricordo una cosa così. Calcola che i primi cartoni animati, quelli con la giacca turchese, erano un po' rovinati, quindi tante cose si sono perse. Perché erano tutti appiccicosi. quindi quello con la giacca. Perché io mi ricordo tantissimo quelli con la giacca rossa. Dopo tanti. E quelli con la giacca verde pure. Fucico, state tranquilli. Walter adesso scende dal treno e ti viene a menare. Ma no, stai in macchina, no, ha detto prima. No, sta sul treno. Ah, sul treno. Mi sono sbagliata io. Ma Margot non esiste. Margot non esiste. Vabbè, ok. Walter, la devo picchiare, se vuoi lo picchio. Ti picchio. Va bene. Ma in Transistria c'era Margot. E Margot c'era, ovviamente c'era. C'era, non la facevo io ovviamente, perché ci voleva una magra con le tette enormi, e però c'avevamo anche Margot, c'era pure quello, c'avevamo anche Zenigata, pure Zenigata, sì. E la serie in giacca rossa l'abbiamo comprata dalla Francia e loro la chiamavano Margot. Ah, ecco, vedi chi è questo che ci sta dando tutte queste informazioni? Walter, salutiamo Walter. Quante ne sa Walter? Che sta guidando il treno, sta guidando il treno. Va bene, dai, io penso che l'abbiamo portata a casa. Un'oretta ce la siamo passata insieme. Speriamo, insomma, di recuperare sia Walter che Puccio la prossima settimana. Spero di recuperare Walter, Puccio, ma soprattutto spero di recuperare Giulia e il maniaco del 64. Beh, adesso vediamo. Ci sono messaggi che noi abbiamo smistato. Ancora ci sono dei messaggi in coda che dobbiamo passare. Ah, ok. D'altronde, ragazzi, tanto successo la posta del cuore di Mercedes. Allora, io direi, prima di tutto, quindi sperando di recuperare Walter che è affetto da treno e Puccio che è affetto da cistifelle a più coliche. È strano che guardi ancora, tu non sei affetto di niente, perché di solito... Ancora no, però ci provo. Vabbè, mo, durante il fine settimana, se mangiamo qualcosa di piccante, così poi ti portiamo al pronto soccorso pure a te. Quindi io ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato durante questa puntata, vi ricordo che a breve sarà disponibile anche nella versione podcast se volete ascoltarla, vi ricordo anche che domani sera insieme a Marco Gualdi, Carmine Puccio se riprende, Umberto Parisi e Deborah Pixel Deb, se riprende verrà l'anima di Carmine Puccio, esatto, e faremo un episodio dedicato ai nostri giochi più attesi nel 2024. E mentre venerdì mattina torna il grande reset con una puntata intitolata Il calcio con la svastica. Attenzione, che è un puntatone. La svastica del pallone. Esatto, che è esatto. Una ulteriore reinterpretazione del libro di Philip K. Dick. Che buonino, questo si chiamava cazzo qua, fondamentalmente. Io... Comunque, ringrazio e saluto Marco Gualdi. Ciao, vi saluto e abbiamo sdoganato le bestemmie. Esatto. Siamo contenti. Ringrazio e saluto anche Mercedes Cocimelova. Ciao a tutti e mamma li turchi. E io ve lascio con una canzone di una band mongola, che non è quella che vi aspettate voi. Ciao!